Buonasera a tutti. Io sono Elena Paciotti, presidente della Fondazione Basso. Come vedete non sono Karim Mezran. Vi do io il benvenuto. Avrebbe dovuto appunto fare gli onori di casa Karim Mezran, che è il direttore di questo centro studi americani, che gentilmente ci ospita in questa bellissima sede e che io intanto ringrazio vivamente. E purtroppo il ritorno del dottor Mezran dagli Stati Uniti è avvenuto più tardi del previsto, problemi di volo, e quindi non è riuscito ad essere qui in tempo. Spero che ci possa raggiungere. Intanto io ringrazio di cuore gli illustri relatori che oggi discuteranno di questo complesso volume che qui presentiamo. E non potevamo sperare in interlocutori più autorevoli e qualificati per parlare oggi di democrazia e di buona politica. Il volume infatti raccoglie le lezioni dei primi due anni della Scuola per la Buona Politica, che è stata organizzata e diretta da Laura Pennacchi, che è qui presente, insieme con la curatrice del volume, che è Katia Papa, e con alcuni degli autori che si sono generosamente impegnati in questa attività di formazione, direi, di alto profilo. Fra loro sono qui presenti Giacomo Marramao e Stefano Rodotà, e credo qualcun altro che adesso non riesco a individuare. Ora non spetta certamente a me parlare in questo momento della estrema necessità che ha questo Paese di formare alla cittadinanza, all'esercizio consapevole della democrazia, all'argomentazione razionale, alla responsabilità e all'ethos del vivere collettivo e della partecipazione politica. Mi limito semplicemente ad informarvi che la scuola della Fondazione Basso, Vivere la democrazia, costruire la sfera pubblica, questo è il suo titolo, si avvia al suo quinto anno di attività, grazie all'impegno generoso di molti studiosi anche qui presenti. Vedo un'altra delle autrici, la Gabriella Fortunaturi, e si avvia, dicevo, al quinto anno di attività con un semestre di lezioni che sarà quest'anno interamente dedicato al complesso e attualissimo tema dei beni comuni. Intanto discutiamo di questo che abbiamo già fatto e per primo darei la parola a Guglielmo Epifani con molti ringraziamenti. Sì, buonasera a tutti. Mi tocca aprire questa tavola rotonda, non è mai facile perché il libro che presentiamo è un libro molto, molto bello, ma anche molto intenso e anche molto complesso. Ho detto prima a Laura che di fronte a un libro come questo viene voglia di dire: forse bene smetterla per un po' di scrivere e mettiamoci un po' di più a leggere quello che è stato scritto, nel senso che c'è una produzione intellettuale di livello così alta che non sempre è necessario aggiungere, talvolta è necessario provare un po' a riflettere sul punto a cui è arrivato lo stato delle elaborazioni, lo stato delle proposte, perché non è che aggiungendo e basta, talvolta si migliora. E questo lo dico senza, diciamo, senza cerimonia, non perché io stia qui, non perché il libro è edito dalla casa editrice della CGIL, ma perché esattamente è un libro molto bello, molto bello. Molto bravi tutti gli autori, molto ben costruito, e il tema è uno di quei temi che segna, o dovrebbe segnare in un paese normale, dovrebbe segnare un'attenzione, un dibattito pubblico molto più forte di quello che purtroppo noi registriamo. È difficile condensare un tema tra i temi che il libro raccoglie, perché c'è in sostanza l'insieme delle articolazioni attorno al quale il significato e il tema della sfera pubblica e del suo rapporto con la democrazia e i diritti viene affrontato. Per parte mia proverei piuttosto a a dire qual è nel tempo presente la grande questione che attorno a questi temi noi viviamo e con la quale dobbiamo purtroppo, come anche gli ultimi fatti, per esempio delle vicende della Fiat, ci conferma. Qual è il problema in cui noi siamo? Il problema è questo, che nel momento in cui attraverso questi processi economici e finanziari che vanno sotto il nome di globalizzazione, e in una fase nella quale la globalizzazione non è onestamente regolata, se non per alcuni aspetti marginali sul terreno globale, e in una fase nella quale non c'è simmetria tra la forza di questi processi e la costruzione di organismi metanazionali in grado di poter neanche minimamente essere paragonabili al rapporto tra le funzioni degli stati nazionali, i welfare nazionali e le economie nazionali di qualche decennio fa, tutto questo apre un problema gigantesco, che si può affrontare da tanti punti di vista, ma rispetto al quale quello che a me colpisce di più, ed è anche il più delicato, è quello che viene a capitare in ragione di questa asimmetria a quel delicatissimo rapporto che va sotto il nome dei rapporti tra i poteri e gli spazi di scelta dei cittadini e quello che i cittadini subiscono come oggetto in ragione della forza di questi processi. Noi sappiamo ad esempio che con l'economia globale il cittadino è ritornato un soggetto molto più forte come mai nel passato, ad esempio sul versante del suo ruolo di consumatore. Non c'è mai stata così forte una sovranità del soggetto consumatore in tutta la storia dell'umanità. Oggi un cittadino chiunque può decidere, può scegliere tra tante opzioni, tra tanti modelli, tra tanti stili, tra tante offerte, tra tante qualità e tra tante dimensioni di prezzo. Il cittadino da questo punto di vista oggi è più soggetto che nel passato, quando i mercati erano chiusi, quando le scelte erano più limitate, quando spesso era l'offerta che condizionava la domanda. Oppure su un altro versante, la rivoluzione informatica, soprattutto quella relativa alla rete, rende il soggetto cittadino molto più ricco di potenziali informazioni nell'unità di tempo, in tempo reale, come mai è accaduto nel passato. Qualsiasi parte del globo oggi, attraverso internet e attraverso tutte le funzioni che sulla rete sono state poi attivate, è in condizione di fare quello che vuole, di sfogliarsi enciclopedie e enciclopedie, libri e libri, di avere informazioni in tempo reale, di sapere il tempo che fa in questo momento dall'altra parte del mondo. Da questo punto di vista il cittadino ritorna ad essere un soggetto pieno di informazioni come mai è stato nel passato. Quindi nella sfera del consumo, nella sfera dell'informazione, aumenta il potere del soggetto cittadino. Ma che cosa avviene nella sfera invece altrettanto, se non più decisiva, del potere del cittadino di concorrere attraverso gli strumenti che la democrazia gli mette in condizioni a determinare gli esiti dei grandi processi economici, finanziari e sociali? E da questo punto di vista, e non credo di forzare, quella soggettività che oggi è senza limiti rispetto al passato sulla sfera del consumo o sulla sfera dell'informazione, dal punto di vista invece della sfera della soggettività politica, di quello che poi in uno degli articoli che compongono il libro viene chiamata della democrazia deliberante, oggi il cittadino si trova ad essere forse oggetto come mai nel passato. Perché dico che secondo me questo è il vero problema? Perché in questa simmetria, in questa seconda simmetria, tra una soggettività più forte e un ruolo di passività più forte, per quanto esprime la capacità di orientare le grandi scelte, essendo quella dimensione di contesto di cui parlavo all'inizio, secondo me che si consumano i problemi del tempo moderno. Si consuma ad esempio l'assurdità di quello che è avvenuto alla Fiat, e cioè del fatto che fai decidere a 5.000 lavoratori di un progetto di investimento di politica industriale che nessuna parte del mondo dovrebbe essere caricato sulla spalla di 5.000 lavoratori. Avviene, sempre in ragione di tutto questo, che il cittadino si sente espropriato dalla possibilità di concorrere a decidere un orientamento di merito per quanto riguarda le azioni pubbliche o le responsabilità pubbliche, in un gioco che poi naturalmente per noi paesi europei è particolarmente accentuato da questo strano ircocervo che è l'Unione Europea, in cui non si capisce mai chi ha la responsabilità finale di poter decidere qualcosa. Tra approssimazione della costruzione europea, assenza di ruolo e di capacità degli stati sovrani, come è stato fino a qualche decennio fa, e dentro questa simmetria, secondo me, si consumano tanti dei nostri problemi. Perché in questo iato, in questo varco, che prendono forma, ad esempio, il rifiuto e la speranza che la politica possa cambiare le cose. E dentro questo varco che si muovono i populismi o anche i neopopulismi, e dentro questo varco che alimenta un neomillenarismo possibile. Cioè voglio dire che dentro questo diventa difficile ritrovare il filo attraverso cui ricongiungi quel soggetto con le funzioni anche di essere soggetti di cittadinanza, di deliberazione, di scelta democratica. E anche l'illusione che tutto questo in realtà possa essere riconducibile più vero nella dimensione territoriale o nella dimensione aziendale per quanto riguarda il lavoro, è una illusione. Non è vero, ad esempio, che il federalismo fiscale di cui si sta discutendo sarà lo strumento in assenza di un quadro diverso in cui tu puoi essere libero di determinare le tue scelte su un'amministrazione, su un comune o su una politica fiscale. Perché in realtà, come vedremo, tutto si tiene anche su questo versante. E questo è il vero dilemma della democrazia di oggi. Che cosa preoccupa di questo vuoto, di questo iato, di questo dilemma? È che dentro questo poi tu trovi la spiegazione, se no altrimenti non esplicabile, della debolezza delle istituzioni, della debolezza delle forze politiche, della debolezza dei soggetti di rappresentanza sociale. Perché in assenza, e poi come ho già detto, con il caso italiano, con il caso europeo, che fanno da moltiplicatori a questa situazione, ma perché è evidente che non può funzionare alla lunga una situazione come questa. Basta prendere, ad esempio, su questo chiudo, per quanto riguarda la nostra dimensione europea, questo tema di cui nessuno parla. Quando noi abbiamo fatto e ci abbiamo impegnati anche come sindacato l'euro, noi avevamo visto l'euro come primo passo di una costruzione in cui dal punto di vista della democrazia, delle istituzioni e del coordinamento delle politiche economiche e fiscali ci fosse un passo in avanti decisivo. Io dico sempre che non è mai esistita nella storia dell'umanità una moneta senza uno Stato. Non c'è stata mai. A una moneta è sempre corrisposta un'organizzazione, una responsabilità statuale, anzi, talmente vero che spesso abbiamo avuto monete internazionali perché gli stati, in quel caso i grandi regni, le grandi potenze coloniali, erano in condizione di determinare con la stessa moneta il valore di scambio di tanti paesi, ma non abbiamo mai avuto una moneta unica senza istituzioni democratiche uniche. E questo che può apparire un paradosso della storia, in realtà è alla base di quasi tutti i problemi che ci troviamo a dover affrontare sul terreno delle politiche di bilancio, delle politiche di investimento, delle politiche di welfare, del rapporto tra la responsabilità degli stati, che pure sono eletti su suffragio democratico, e la responsabilità di questi stati di concorrere ad affrontare questi problemi. Io cito sempre, a testimonianza diciamo di questa verità, quello che è accaduto in Grecia, perché la parabola della Grecia è una parabola che la dice lunga su questa contraddizione. Il nuovo governo socialista di Papandreou, appena eletto, si è trovato di fronte a un buco di bilancio definito da molti anni passati, ma in modo particolare dall'ultimo governo. Il vecchio presidente del Consiglio greco, un economista, 2 anni prima del suo mandato, si è dimesso ed è tornato ad insegnare negli Stati Uniti. Il vecchio presidente della Grecia era molto amico della Merkel e sostenuto dalla Germania. Il nuovo governo socialista di Papandreou si è trovato di fronte a una scelta chiara: o subire quello che gli chiedeva la Banca Centrale e il Fondo Monetario, o far fallire la Grecia. Aveva margini? No. Poteva scegliere di fare altro? No. Come può essere accettabile che fuori dai mandati democratici, in quel paese, quei cittadini, quel governo, a un certo punto si ritrovano senza la possibilità di incidere o modificare una scelta? In questo sta, e per questo cito il caso della Grecia, in questo sta il grande dilemma nel quale siamo. Perché se non decide il cittadino greco, se non decide il governo greco, se non decide l'Unione Europea, se non decide democraticamente l'Unione Europea, chi decide per loro? E quando decidono altri per i cittadini o per un governo, per un paese e domani per l'Unione? Che soggettività il cittadino dell'Unione, il cittadino della Grecia, il cittadino dell'Italia, il cittadino della Francia, il cittadino della Germania? Questo è il cuore del problema che noi abbiamo. Possiamo edulcorarlo, far finta di nulla, dire che prima o poi si risolverà, che questa è una fase in cui poi dopo ne verrà un'altra. Possiamo cioè darci le risposte che vogliamo. Ma la sostanza del problema non cambia. E un cittadino che sa che con il proprio voto, col proprio agire, non cambia queste scelte, è un cittadino che o diventa suddito, o diventa apatico nei confronti della politica, o come in Grecia è costretto a fare 8 scioperi generali senza che nulla cambiasse del quadro delle possibilità economiche e finanziarie delle scelte di quel governo. Questo è il problema. Per questo sono voluto partire da quello che mi pare il cuore dei problemi, perché poi tutto il resto, la sfera pubblica, i diritti, cioè tutte le costruzioni che il libro affronta, sono tutte vere, tutte giuste, ma se non arriviamo al cuore di questo problema, io temo che queste nostre riflessioni appariranno riflessioni assolutamente fondate, assolutamente condivise, in un mondo però in cui, in ragione di questo paradosso, di questa asimmetria, le cose andranno in un'altra direzione. Grazie mille a Guglielmo Epifani, che effettivamente ha messo il dito sulla piaga, ha indicato qual è il problema della democrazia oggi: questa debolezza delle politiche nazionali, debolezza degli stati-nazione di fronte alla globalizzazione, insieme a questo drammatico ritardo nella costruzione di organismi sovranazionali, il drammatico ritardo nella costruzione dell'Europa, quello sul quale tanto hanno insistito i pochi politici italiani che hanno visto il problema e l'hanno inutilmente additato, da Ciampi a Napolitano, a Prodi, a Padoa-Schioppa. Purtroppo è lì il problema e la nostra politica è in enorme ritardo. Avremmo potuto e dovuto fare molto di meglio, credo. La parola all'onorevole Rosi Bindi, che ringrazio ancora moltissimo, purtroppo ha impegni parlamentari che la costringeranno a lasciarci molto presto. Grazie. Sì. dopo le poche cose che dirò, purtroppo me ne devo andare, purtroppo per me, perché chiaramente questa è una occasione molto, molto interessante, molto ricca. Ringrazio Laura per l'invito, ma soprattutto la ringrazio per questo lavoro, la ringrazio per aver avuto il coraggio di riprendere il tema della formazione come un tema centrale. Credo che questo impegno che continua è in qualche modo una strada, un sentiero, un percorso segnato che forse potrebbe anche provocare, sarebbe bene che provocasse una certa imitazione anche da parte di altri soggetti, penso in maniera particolare un a caso i partiti, insomma, forse. Insomma, io vorrei innanzitutto esprimere, diciamo, un apprezzamento per aver posto il tema della formazione politica e culturale come un tema centrale, sperando, come dicevo appunto, che scatti anche qualche meccanismo imitativo da parte di altri soggetti, partiti per esempio, che non sarebbe una cosa sbagliata, non che non se ne faccia, ma mai abbastanza secondo me. Ecco, poi volevo esprimere anche compiacimento per la completezza e per la profondità del modo con il quale è stato trattato il tema. Credo che non si possa davvero dire che non è stato lasciato nessun fianco scoperto, diciamo, alla riflessione, e quindi credo che anche questo debba essere fortemente apprezzato, e se ne consiglia la lettura. Questi sono libri normalmente che si tengono nelle proprie librerie e biblioteche personali per consultazione, no? Dice: mi serve una cosa, la vado a vedere. Lì c'era un bel intervento di. Però questa volta è proprio il caso di dire che la lettura completa sarebbe consigliata, proprio per il fatto che dicevo prima, c'è una completezza che va assolutamente rispettata e che va assolutamente apprezzata. Io ho apprezzato anche un altro aspetto che in maniera sintetica enuncerei in questo modo. È un libro che dà anche un po' di speranza, secondo me, perché sicuramente ha il coraggio di non tacere le sfide, le tentazioni, i rischi, le problematiche. Però ci dice anche che non è vero che siamo senza bussola, cioè non è vero che non c'è una soluzione, non è vero che non c'è una strada tracciata, è vero che il cambiamento è talmente profondo e talmente radicale, le sfide sono talmente grandi che nessuno può pensare di possedere già la ricetta e già la soluzione. Però è anche vero che le nuove soluzioni si possono trovare ribadendo fiducia, secondo me, in quelle che appunto io definirei la bussola e gli indicatori principali che possediamo, perché qui si tratta di ricostruire la sfera pubblica anche nei contesti nazionali, perché io penso che abbia posto il problema chiave Epifani in quello che ci ha detto. Credo anch'io che, insomma, noi dobbiamo liberare la politica dagli angusti confini degli stati nazionali, che non sono più lo spazio che contiene i processi economici, finanziari, culturali, sociali di oggi. E che quindi solo una politica e delle istituzioni e delle organizzazioni che abbiano la dimensione internazionale oggi forse saranno in grado di governare i processi e di trovare la soluzione. Però il risultato, diciamo, la conseguenza grave di questo ritardo con il quale noi ci confrontiamo sta nel fatto che si è sbriciolata anche la sfera pubblica all'interno degli stessi confini nazionali. Cioè noi, e questo il libro lo mette in evidenza con molta forza, insomma, no? Cioè qua è davvero in crisi lo spazio pubblico inteso come lo spazio delle istituzioni, della politica, ma anche della solidarietà, della reciproca assunzione di responsabilità. E sono venuti meno i riferimenti, o comunque si sono superate le sintesi che avevamo trovato. Cioè, vedo qua a Rodotà il grande tema della laicità. È chiaro che è una sfida oggi intorno alla quale va ricostruito una sintesi che in qualche modo abbiamo, secondo me, smarrita ed è comunque messa a rischio. E penso da questo punto di vista che, insomma, il nostro paese è messo in una situazione particolarmente critica, perché pensiamo anche ai recenti fatti di questi giorni. Io sono Laura me l'ha sentito dire in sede di partito. Insomma, io penso che la vicenda Fiat sia una vicenda sulla quale dobbiamo avere il coraggio di riflettere, di assumerci le nostre responsabilità tutti più di quanto abbiamo fatto. Certamente non devo dirlo a un sindacato come la CGIL in questo momento, che ha rappresentato uno dei pochi punti di riferimento in questa situazione. Ma è evidente che e quel risultato lo dimostra. Io devo ringraziare i lavoratori della Fiat per quel risultato, perché quel risultato inchioda ciascuno di noi alle proprie responsabilità, molto di più di quanto secondo me noi abbiamo fatto. Io sono preoccupata del fatto che qualcuno pensi che si è rotto un punto di equilibrio e ci si possa accontentare di qualunque equilibrio che si riforma senza che vi siano delle scelte di carattere generale che orientano. Cioè, io posso anche arrivare a ammettere che ci possano essere equilibri anche diversi, articolati rispetto alla fissità degli equilibri che in una società diversa eravamo riusciti a individuare, ma la venuta meno di un quadro generale che ponga dei punti fermi, irrinunciabili anche per l'articolazione degli equilibri a livello locale, aziendale, nazionale, che si possono, di categoria, che si possono. Cioè, questo mi lascia francamente con un interrogativo molto profondo sulla capacità della politica in questo momento di assumersi le proprie responsabilità. E siccome non mi aspetto che lo faccia un governo che approfitta di questa situazione per affermare ancora di più il modello di società che ha in testa, questo vale soprattutto come monito a chi invece vive questo con grandi interrogativi, anche con angoscia in qualche modo. Ecco. Io so bene che le soluzioni che avevamo trovato nel passato non vanno più bene. Mi spaventa il fatto che ci si rifiuti di trovare una soluzione che sia coerente con quei principi che sono ancora validi e che non possono essere spazzati via. Ecco, questo è uno dei punti sui quali mi pare, appunto, di quel libro, è un libro di speranza, perché ci dice che ci sarebbero questi punti di riferimento, basterebbe avere il coraggio di considerarli ancora validi. Ecco, qui è una scelta culturale, chiaramente, che dobbiamo fare insieme. E l'altro aspetto è quello della politica, perché, insomma, che cosa si può aspettare di poter ricostruire la sfera pubblica in questo paese se non ci liberiamo dall'imbarazzo dentro il quale siamo? Questo è un punto. Cioè, qui c'è siamo oltre, che nella sua introduzione Laura individua le istituzioni come un punto irrinunciabile. Senza le istituzioni, che non sono soltanto il Parlamento, il Presidente della Repubblica, ma che sono la scuola, che sono le rappresentanze sociali, cioè tutto ciò che in qualche modo è un punto di riferimento nella vita della società. Senza quello, gli individui si sono illusi di trovare una sintesi dei rapporti tra di loro. Ora, se il dato istituzionale non solo non c'è, ma quello che c'è è diciamo l'emblema del cattivo esempio di come si deve vivere insieme, è chiaro che non c'è una possibilità di uscire da questa situazione. Ecco, allora io credo che anche da questo punto di vista sia arrivato forse il momento di dire con molta chiarezza che non può più permettersi questo paese di vivere in una situazione tanto imbarazzante e tanto bloccante come quella che ci è stata regalata in questi ultimi anni, in maniera particolare in questi ultimi giorni. Ecco, perché la politica, la dignità della politica è ineliminabile nella ricostruzione della sfera pubblica e nella qualità della democrazia. Grazie mille a Rosi Bindi per i suoi apprezzamenti così autorevoli, che ci fanno molto piacere, e anche per il suo giustissimo richiamo. È vero che il problema della democrazia oggi è drammatico e evoca scenari globali, e tuttavia questo non ci esime dalla responsabilità e non può costituire un alibi per non fare quello che è nostro dovere fare per una decente vita pubblica, e anche per fare delle politiche di governo, per esempio delle politiche industriali che prevengano drammi come quelli che abbiamo vissuto. Grazie molte. La parola adesso è al professor Flick. Prego. Grazie. Fatemi mettere, ecco, il tempo tecnico. Scusate, prima mi ero dimenticato di chiudere il telefonino, ma vedo che in materia di controlli tecnologici anche l'Istituto americano ha i suoi problemi, quindi mi ritengo scusato. Ma dunque, bicchiere mezzo vuoto, pessimista, di Epifani, bicchiere mezzo pieno, di Rosi Bindi. A me non rimane molto da dire se non sottolineare anch'io la difficoltà estrema di leggere questo libro, bello, complicato, intenso, faticosissimo. E faticoso, anch'io pensavo come Rosi, è da leggere e da mettere poi nello scaffale, utilizzandolo nei momenti in cui si ha bisogno di punti di riferimento. Poi le vicende di questi giorni mi fanno pensare che invece è un libro attualissimo e che è quasi di cronaca, perché i due filoni conduttori del libro, il problema della democrazia da un lato e il problema del rapporto tra sfera pubblica e sfera privata da ricostruirla prima, trovano nelle vicende di questi giorni dei referenti formidabili. Problema referendum fiat. Ho letto stamattina un editoriale di Galli della Loggia che mi ha lasciato un po' perplesso, un po' impaurito, vorrei dire. Il doppio riferimento di Galli della Loggia, da un lato, al fatto che il risultato del referendum dimostra che non c'è più indivisibilità tra i diritti fondamentali. Noi eravamo abituati a ritenere che una delle grosse conquiste raggiunte dopo la Seconda Guerra, dopo la Shoah, dopo le armi di distruzione di massa, fosse l'universalità, l'indivisibilità e l'effettività dei diritti fondamentali. Indivisibilità, per tradurla in termini semplici, vuol dire che non basta garantire l'inviolabilità del domicilio a chi dorme sotto i ponti perché non ha un domicilio, perché quell'inviolabilità del domicilio se la stropiccia se contemporaneamente non c'è un diritto alla casa. E so anch'io che i diritti sociali, come ci spiega Galli della Loggia, richiedono un contesto esterno, richiedono un'attività di prestazione, e potremmo tecnicamente parlarne per delle ore, ma non è il caso, rispetto ai diritti civili e politici. Ma una delle grandi conquiste, io credo, della modernità era proprio quella di dire che non bastano i diritti civili e politici senza i diritti sociali. Stamattina leggo che invece questo va cancellato. E leggo un'altra cosa che mi preoccupa. Diciamo la costruzione tecnica di quell'attacco alla prima parte della nostra Costituzione con l'attacco al lavoro come valore fondante del nostro sistema costituzionale. Voi sapete che abbiamo una Costituzione che all'articolo 1 si dichiara fondata sul lavoro, l'articolo 4 sviluppa questo tema nel diritto dovere al lavoro. Ecco, si dice che nel contesto di crisi il diritto sociale al lavoro è un diritto che ormai è superato. È superato o dovrà essere condizionato e vissuto. Questo mi fa paura un po', perché mi fa pensare che si sta cominciando a introdurre una breccia nell'ambito del discorso di una democrazia alla quale finora pensavamo. L'altro profilo di estrema attualità di questo libro è il discorso della vicenda pubblico-privato per quello che stiamo leggendo in questi giorni, in particolare da ieri sera. Non mi interessa, non voglio entrare nel merito di una vicenda che vede il Presidente del Consiglio coinvolto in una questione in cui non si riesce più a capire dove finisce il pubblico e dove comincia il privato e viceversa, dove finisce il privato e dove comincia il pubblico. Credo che c'è responsabilità di tutti in questo, c'è responsabilità forse del soggetto Berlusconi, c'è responsabilità dei media che su questo ci hanno lavorato moltissimo, c'è forse anche responsabilità della magistratura o di una parte della magistratura, non mi interessa, però credo che ci sia estremo bisogno di ciò che questo libro dice o propone come spunti per ricostruire faticosamente una distinzione tra pubblico e privato. Una distinzione nella quale, tra l'altro, entra anche molto poi il ritornare a un rispetto della sfera individuale, dell'identità individuale, della privacy, di cui ci ha parlato più volte Rodotà, senza che questo debba diventare lo strumento per disciplinare in un modo piuttosto in un altro le intercettazioni telefoniche. Ecco, cioè, vedete, in un momento in cui, e questo lo ricavo alla luce della mia esperienza professionale. Per 9 anni mi sono occupato del rapporto tra valori e regole come giudice costituzionale. Viviamo in un momento in cui abbiamo perso completamente il riferimento ai valori e ci occupiamo fino allo spasmo delle technicalities delle regole. Il libro, perché è più facile occuparsi di discutere delle regole e improvvisarci tutti avvocati e discettare magari per un sacco di tempo sulla differenza tra indizi evidenti, tra necessità di indizi sull'esistenza del reato o sulla responsabilità a proposito delle intercettazioni, piuttosto che andare a toccare direttamente il problema del rapporto tra i valori costituzionali, tutti importanti coinvolti da questo tema. Allora ecco, questo libro, sono grato a Laura e agli autori, perché questo libro invece ricomincia a parlare e seriamente di valori e di soluzioni. In questo sono d'accordo con Rosi sul significato ottimista. E se ho ancora un minuto di tempo, perché mi ero segnato, se me lo date, sì, qualche cosa poco non ce l'ho. Ecco, io più che prendere singoli temi, il libro è difficile, guardate, ho scritto una, non ve le leggo tutte, state tranquilli, 14 pagine di riflessioni buttate, leggendolo e rileggendolo. Vivere consapevolmente e responsabilmente la democrazia. Sono pienamente d'accordo con Laura sul problema che la cultura, la conoscenza dei diritti fondamentali e il dialogo è la base per cominciare a ritornare a esaminare cosa voglia dire l'eguaglianza e sul primo versante, il versante della democrazia, e per riuscire a distinguere tra particolare e universale, tra privato e collettivo, cioè per ricostruire la distinzione tra pubblico e privato. E sono d'accordo con Maramao quando invoca una formazione permanente e un consenso informato per vivere la democrazia. Un consenso informato o un dissenso informato perché è venuta meno la consapevolezza che è la premessa della democrazia. E allora questo mi apre un'autostrada nella lettura del saggio di Rodotà. Il filo rosso del consenso informato, che viene attualizzato con riferimento al tema del diritto alla salute. Guardate, ricordate quando è mancato Monicelli? Si è improvvisamente risvegliata una fiammata di radicalismo dall'una e dall'altra parte, tra chi diceva che Monicelli era stato lasciato solo e chi rivendicava il diritto di Monicelli al suicidio. Io non ne posso più. Non ne posso più di vivere in un paese, lo dico adesso che ho lasciato la Corte Costituzionale, nel quale un dramma umano come quello di Eluana Englaro è diventato il caso Englaro, tra virgolette, cioè è diventato materia di un conflitto di attribuzione. Questa è la sensazione che ci dà questo paese di avvocati o di giudici, in cui il tema della morte è diventato, non entro nel merito, Stefano sa che su alcune cose siamo d'accordo, su altre forse meno, ma un paese nel quale il caso Englaro, nemmeno col nome, solo col cognome, o il caso Welby, sono l'oggetto di un caso giuridico o di un conflitto di attribuzione. E allora io credo che è centrale il riferimento di Maramao prima e di Rodotà poi al consenso o al dissenso, che ci porta dritti sul principio di laicità, un principio che la Costituzione non definisce esplicitamente, ma che la Corte Costituzionale ha ricavato implicitamente con una famosa sentenza del 1989, partendo dal rapporto tra Stato e Chiesa. E sarebbe interessantissimo rivivere il 150enario rivisitando la questione romana sotto questo profilo. Allora, io sono convinto, che lo dice la Corte Costituzionale in quella bella sentenza, poi lo riprende in una sentenza recente a proposito del consenso, che è quella del 2007, io c'ero allora in corte, o del 2008. 2008. Ero io che presiedevo, scusate, questo vi dimostra che sto incamminandomi verso la verde età della dimenticanza, è vero? No, no, ma mi ricordavo la sentenza, non mi ricordavo di aver presieduto io la Corte, no, no, non mi piace parlare delle cose che ho fatto quando ero a Palazzo della Consulta, ma è una bella sentenza perché aggancia il consenso nella salute e il rifiuto del trattamento al valore dell'autodeterminazione e al valore stesso della salute. Vedete, per esempio, e anche qui sono d'accordo con Stefano, un passo enorme è stato fatto quando, un anno fa, con molta fatica, si è approvata all'unanimità la legge sulle terapie antidolore, sulle terapie palliative, quando in questo Paese si è finalmente capito che la salute è anche diritto a non soffrire. Quando abbiamo abbandonato la vecchia tesi che la sofferenza, che il dolore è strumento per fare penitenza, o peggio, che il dolore è strumento per far parlare la gente, la tortura. E allora, tutto questo porta, e condivido pienamente ciò che è stato detto da loro, sul tema della democrazia come consenso. E personalmente sono convinto che la nostra Costituzione possa essere riassunta in due principi che contengono e riassumono tutti gli altri. Il principio della pari dignità come principio di merito, come principio di contenuto. E non vengano a dirmi che è un concetto generico in cui entra tutto il contrario di tutto. Guardate, una delle esperienze che mi ha colpito di più come giudice costituzionale è stato andare ad Auschwitz per aprire sulla spianata del campo di Auschwitz le celebrazioni per i 50 anni di attività della Corte Costituzionale. Abbiamo tenuto una sorta di udienza con la Corte polacca ad Auschwitz-Birkenau. Poi sono tornato altre volte ad Auschwitz con gli studenti e io ho l'impressione che andando su quel posto e vedendo quelle baracche, tra l'altro rendendosi conto che col passare del tempo, ecco perché è necessaria la giornata della memoria, i segni di ciò che è stato si perdono. Quando non avremo più i testimoni oculari, i salvati che hanno visto e che hanno subito, tenderemo tutti a confinare questi problemi nell'ambito della storia e non più della memoria, il che un po' mi preoccupa. Allora, ecco, io ho cominciato a cercare di capire che cos'è la dignità, andando su quella spianata, vedendo quelle valigie, i capelli, gli occhiali e tutto quello che ha segnato 6 milioni di dignità personali bruciate attraverso il camino. Allora, dicevo, principio di merito, principio che riassume tutti gli altri principi e valori costituzionali, la dignità. la pari dignità. E poi un altro principio strettamente legato a quello della dignità, la laicità, che è un principio di metodo. Io sono convinto che la Costituzione si può riassumere in questi due principi, che contengono tutti gli altri. Tendendo la laicità, come diceva Bobbio, rispettare l'altro per quello che è. Non brandire come clavi i tuoi valori per darli in testa all'avversario, ma rispettare l'altro, se riesci a convincerlo, ascoltare perché forse qualcosa c'ha da insegnare. E siamo lontanissimi da questo tema. Mi fa paura pensare che si possa rimettere in discussione adesso alla Camera il problema della legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, ritornando a quell'atteggiamento di radicalismo dell'una e dell'altra parte. E allora ho letto il libro in questa chiave, cogliendo per esempio in modo estremamente interessato il discorso di Zagrebelsky sui due profili di difesa della democrazia, la libertà e la responsabilità. La responsabilità perché noi con una democrazia di stampo populista, consensuale, dei sondaggi, puntiamo solo ai consensi sul brevissimo e quindi sottovalutiamo quegli organismi di garanzia, Corte Costituzionale in testa, che guardano al futuro. Se Laura se lo ricorderà, se posso citare una piccolissima esperienza di quando ero al governo, come Ministro della Giustizia. I programmi della giustizia sono programmi tutti a medio se non a lungo termine. Non si fa niente che riesca a risolvere per il giorno dopo. E sentivo, te lo ricorderai anche tu, ne abbiamo parlato, una certa perplessità in Prodi quando mi diceva, il mio Presidente del Consiglio, scusa, ma tu stai facendo delle cose i cui risultati si vedranno fra 3-4 anni e magari noi non ci siamo più. Che non ci siamo più al governo, no, non ci siamo più. Ecco, che è un po' lo stesso discorso che faceva prima Epifani. Ti do un'altra... un'applicazione di quello che dicevi. Io tremo pensando a che cosa succederà con i derivati. Noi abbiamo una serie di situazioni in cui gli enti locali si sono indebitati, senza saperlo, in un modo spaventoso per il futuro, attraverso il tema dei derivati. E chi adesso arriva ad affrontare quel discorso negli enti locali si trova a buchi del tipo di quello greco, perché siamo diventati schiavi completamente di una finanza che non riusciamo a capire. Così come mi è piaciuto molto, arrivo rapidamente a concludere, l'altro discorso fatto da Zagrebelsky, le tentazioni della libertà nella democrazia, la tentazione del pane, la tentazione della menzogna, la tentazione del potere. Bellissima come immagine. Io come cattolico la sento molto vicina. E penso per esempio che nel referendum di Mirafiori abbia serpeggiato un po' la tentazione del pane. Quando la gente diceva io devo andare a votare in un certo modo perché sennò perdiamo il posto di lavoro. Non so quale sia il limite, non voglio entrare nel mezzo. E andiamo avanti. Un altro punto che mi ha colpito molto è il discorso sull'analisi e sulla crisi della rappresentanza. Lo dice molto bene Luciani. Noi tendiamo a trasformare la rappresentanza politica, pubblica, in una rappresentanza di tipo giuridico-commerciale, contrattuale, in una rappresentanza del particolare, e non è molto lontano da questa prospettiva quella di vedere le leggi come contrattazione, non più come principi generali. I nostri parlamenti non sono più capaci di fare le leggi, non siamo più capaci di fare le leggi, e le regole le fa l'esecutivo, vecchia storia di cui tante volte abbiamo discusso. E qui l'ultimo punto che voglio toccare, che mi ha colpito molto, è l'analisi del problema nella crisi della rappresentanza, che è una crisi, è stato detto giustamente nel libro, è una crisi soprattutto di valori e dei rappresentati, perciò la crisi dei rappresentanti, la crisi dei partiti, la crisi dei partiti che io personalmente sento e vivo molto, perché io credo profondamente nella nostra Costituzione e credo che ai partiti di massa dobbiamo avere molta gratitudine per ciò che seppero fare durante la Resistenza e durante l'Assemblea Costituente, quando di fronte a uno Stato corroso dall'interno, i partiti furono la cinghia di trasmissione con la società civile e seppero portare la società civile a quello splendido monumento che è la nostra Costituzione, che ne dica chi la vuol cambiare. Sapete tutti meglio di me come poi i partiti si sono evoluti con una anomia, diceva Leopoldo Elia con una bella espressione, si sono sdraiati sulle istituzioni o le hanno occupate, ma questo è un altro discorso. Ma perché arrivo al tema dei partiti per concludere? Perché le riflessioni che sono fatte da Salvati, da Bagnasco, dallo stesso Luciani e dall'Orbinati sono molto interessanti quando rivalutano la dimensione del locale, della municipalità, della città, cioè la nuova prospettazione dei partiti o comunque degli organi di mediazione tra la società civile e la società politica in chiave locale. Sappiamo tutti che lo Stato si sta indebolendo verso l'alto, dimensione sovranazionale europea, e verso il basso, dimensione municipale locale. Io stesso ho lavorato con altri a una carta dei diritti umani nelle città, cogliendo l'importanza di guardare al fenomeno dei diritti fondamentali a livello locale, perché è quello in cui si può essere più consapevoli, si può lavorare più per l'effettività dei diritti umani. Ma poi rendendomi conto che è l'ora di piantarla lì, di continuare a fare carte dei diritti che poi non trovano applicazione. Ma voglio dire che il tema della dimensione locale del partito, della nuova rappresentanza, è un tema nel quale irrompe il discorso del federalismo, cioè della rivalutazione della dimensione locale, sia pure attraverso un federalismo di tipo solidale e non un federalismo di tipo competitivo. Ma vi sarebbe da parlare a non finire. E qui chiudo veramente. L'ultimo tema che colpisce me, uomo delle regole, o meglio, uomo che si è occupato del rapporto tra regole e valori. Il tema della universalità dei diritti fondamentali, non vorrei che uno di questi giorni ci venisse a raccontare non solo che i diritti fondamentali non sono più indivisibili, ma non sono più neppure universali. Qualcuno ha già tentato di raccontarcelo quando ci ha spiegato con la rendition o con i bombardamenti per ristabilire la democrazia che i diritti umani non sono universali. Abbiamo secoli di storia che ce lo spiegano. Ma la cosa che mi colpisce e che apre completamente, apre la strada a un tema nuovo, l'appartenenza, la cittadinanza e l'immigrazione. Noi ci troviamo, ecco, è finito. È finito. Mi date ancora mezzo secondo? Grazie. Lo fermo perché sennò... Stop. Ecco, via. Ok. La cosa importante, stiamo vivendo, e non riflettiamo a sufficienza, e nel libro è detto molto bene, il problema della scissione tra l'universalità dei diritti riconosciuti all'uomo come tale e il crescere della concezione dell'appartenenza, i diritti politici e i diritti sociali riconosciuti solo al cittadino. Cioè a una logica di appartenenza che contrasta, dovremmo trovare una mediazione, con l'universalità dei diritti fondamentali riconosciuti all'uomo in quanto tale. Fino a che arriviamo al paradosso che la cittadinanza, e voi sapete quali sono le polemiche che oggi si discutono sulla cittadinanza, che era nata come espressione di eguaglianza, le citoyens, tutti i cittadini uguali, e non più diversi per censo, per corporazione o per appartenenza, è diventata adesso invece sintomo di diseguaglianza tra chi è cittadino e sta nell'appartenenza e chi cittadino non è e può solo godere, potrebbe solo godere, dei diritti universali. Ecco perché questo libro mi è piaciuto molto e se consentono gli autori lo vedo come un contributo abbastanza importante alla celebrazione di quei 150 anni dell'Unità d'Italia che stiamo tutti domandandoci se celebrare o no e che io credo che dobbiamo con forza celebrare, perché questo libro è un modo, è un tentativo, è una strada per arrivare a riempire, lo dicevo l'altro ieri ascoltando quella bellissima conversazione di Villari al Basso, Italia si bella e perduta, per arrivare a un nuovo patriottismo costituzionale che sostituisca o che integri, chiamatelo come volete, il patriottismo su cui si è fatta la prima Unità d'Italia. Il patriottismo della prima Unità d'Italia si è fatto su valori culturali, geografici, storici, artistici, che erano quelli di allora e che adesso non vengono più percepiti. Il nuovo patriottismo è quello della condivisione dei valori. E anche tali debbono essere abbandonati. Badate, voi state mettendo in discussione un filo connettivo della Costituzione, perché quello che viene negato con quelle affermazioni, e mi dispiace di aver dato tanto spazio a una, ma ripeto, ma è il dibattito pubblico che rischia di orientarsi in questa maniera. Non si mette soltanto in discussione l'articolo 1, la Repubblica democratica fondata sul lavoro, ma l'articolo 36, laddove si dice che, che la retribuzione deve garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Il tema della dignità del lavoro è il tema della dignità della persona. Noi non possiamo abbandonare tutto questo. Io devo dire francamente che mi sono sentito umiliato quando, nelle molte interviste che hanno accompagnato le giornate precedenti il referendum di Mirafiori, ma credo che questa sia un'umiliazione condivisa da molti, ho sentito, ho visto i volti di lavoratori di Mirafiori che dicevano: voterò sì perché devo pagare il mutuo, voterò sì perché ho due figli, voterò sì perché è un'età per la quale per me la disoccupazione significa la fine. E allora dov'è finito l'articolo 3, secondo comma della Costituzione, che obbliga la Repubblica, dovere della Repubblica, a rimuovere gli ostacoli di fatto? Non c'era eguaglianza e non c'era dignità, e c'era la fine della dignità della persona in tutto questo. E per questa ragione che io penso che noi quel filo non lo dobbiamo perdere, che poi ci porta alla impresa e alla libertà d'impresa, affermata nell'articolo 41, ma dove si dice che non può svolgersi in contrasto con la sicurezza, con la libertà e la dignità umana. In realtà, dietro tutto questo, c'è un disegno niente affatto mascherato, che ritorna e che in questo momento assume una certa violenza giustificata dai fatti, di liberarsi di un pezzo della Costituzione, essenziale, costitutivo. Non possiamo da una parte sottolineare il fatto, si dice tutela della persona, ci si riempie la bocca, e poi nello stesso tempo negare questa tutela laddove questa incontra la vita materiale. Questo è un punto essenziale. E questo sta portando alla disarticolazione della sfera pubblica, perché in questo momento non c'è solo la disattenzione, usiamo un'espressione benevola, del governo nei confronti di questa specifica vicenda della Fiat. C'è la caduta della responsabilità del pubblico, che non è questione che si limita soltanto a queste materie. La responsabilità del pubblico, non si può chiedere ai cittadini di essere consapevoli dei doveri che loro incombono quando il pubblico rifiuta ogni dovere nei confronti della società. Questo è il dato obiettivo. Gianmaria Flick ha ricordato prima la legge sulla terapia antidolore, è il modo giusto attraverso il quale, senza volersi impadronire della vita, il pubblico, le istituzioni si preoccupano della vita. Questo è un passaggio essenziale, che non è solo un passaggio di laicità, ma è un passaggio che mette la dignità al centro dell'attenzione. Io penso che questi siano temi che noi possiamo seguire attraverso questo libro, e che in questo momento, quando si dice vivere la democrazia, costruire la sfera pubblica, c'è un'altra sfera pubblica da costruire, all'interno della quale ci sono certamente responsabilità delle persone, dei singoli, ma c'è la necessità di ridefinire, poi lo diceva poco fa Giacomo, quale sia il carattere di questa sfera pubblica. E Guglielmo Epifani all'inizio ce lo diceva, non può esserci sfera pubblica democratica con l'espropriazione dello stesso diritto di cittadinanza inteso nel senso largo, la cittadinanza non più lo strumento che esclude, separa, esalta le appartenenze, ma la cittadinanza come patrimonio, da una parte come patrimonio dei diritti che ognuno porta con sé, quale che sia il luogo del mondo in cui si trova, ma cittadinanza che viene aggettivata spesso, cittadinanza forte, cittadinanza attiva, cioè come strumento per essere presenti nella sfera pubblica. E sfera pubblica e sfera privata in questo senso si tengono molto, perché una sfera privata impoverita è, lo dicevi, tutela del domicilio quando non c'è la casa. Ecco dove noi vediamo la connessione tra le due sfere. Io penso, e qui devo ringraziare molto Laura, che questa sia una buona azione civile, avere fatto questo libro in tempi in cui l'inciviltà un po' ci circonda in modo mortificante. Ringrazio molto Stefano Rodotà per ciò che ha detto e anche soprattutto per la passione con la quale, come al solito, ce lo ha detto, per aver ricordato il ruolo della cultura per la politica. Ora, il professor Flick ha chiesto la parola per un piccolo intervento e poi, dire, e poi forse chiedo a Guglielmo di chiudere. Di chiudere? Allora io grazie. Ho solo da fare una piccolissima precisazione che prima mi era sfuggita ed è una domanda d'altra parte che rivolgo anche a Epifani. Se non possiamo sperare nella crisi della dimensione sovranazionale di lavorare di più per l'Europa e per realizzare nella dimensione europea quelle capacità di intervento che a livello nazionale non abbiamo certamente più. Guardate, ho la sensazione che noi abbiamo sottovalutato e moltissimo il significato dell'Europa. Noi stiamo da un po' di tempo discutendo solo ed esclusivamente sulla crisi prima globale e poi in particolare europea. Ci siamo completamente dimenticati, lavorando solo sull'Europa del mercato, sull'Europa dell'economia e sulle carenze dell'Europa dell'economia, tutto ciò che in questi 60 anni, Elena lo sa bene, o Stefano lo sa, passato il testimone a Stefano per la Convenzione europea per scrivere la Carta dei diritti fondamentali, mentre Elena l'ha mantenuto per tutto il tempo, quello che in questi 60 anni si è fatto per l'Europa dei diritti. Perché l'Europa, attraverso la dimensione prima del Consiglio d'Europa, più vecchia, più obsoleta, ma è stata la prima ipotesi di riconoscimento dell'universalità dei diritti fondamentali, sia pure solo i diritti civili e politici. La Convenzione Europea dei Diritti Umani, ma è il primo, forse l'unica regione in cui c'era e c'è una Corte che condanna gli Stati a un qualche cosa quando violano i diritti di una persona. Accanto a questo percorso c'è stato poi l'altro splendido e complicatissimo percorso dell'Unione Europea, della Comunità e poi dell'Unione, cioè un percorso pretorio, i diritti sono stati creati dai giudici e poi consolidati dalla scelta politica, arrivando a Lisbona. E se il Consiglio d'Europa aveva parlato della universalità dei diritti e della loro effettività, Lisbona, Carta dei diritti divenuta poi documento di valenza giuridica, ha parlato della indivisibilità dei diritti, lo ha detto esplicitamente quando ha collocato le sei aree, e ha parlato della solidarietà. Ora, noi continuiamo a parlare della crisi europea ignorando quasi completamente il DNA dell'Europa, cioè il DNA dei diritti. E io credo, quando penso con un po' di nostalgia alle utopie del Trattato Costituzionale Europeo, probabilmente era giusto che non venisse approvato, era un mattone di 450 articoli, io ricordo l'aria beffarda con cui Scalia, il giudice della Corte degli Stati Uniti, dice: e voi volete fare una Costituzione di 450 articoli? Non aveva tutti i torti, vabbè. Ma comunque, ecco, io credo che noi abbiamo trascurato troppo, e questa è un'enorme responsabilità della politica e della cultura, di lavorare allo spazio politico e allo spazio culturale europeo. Abbiamo uno spazio economico, abbiamo uno spazio giuridico di libertà, sicurezza e giustizia, Non abbiamo mai pensato a cercare di spiegare alla gente, ai giovani, che cos'è l'Europa e che cosa può rappresentare. E chiedo a Guglielmo se per caso non valga, se non pensa che possa in qualche modo lavorare su questa dimensione europea. È un'utopia di fronte agli egoismi nazionali, di fronte al modo con cui è stata affrontata la crisi, di fronte al baricentro dell'Europa, mediterraneo o nordico. Io però ho un sogno in mano e in testa, questa cittadinanza europea che si aggancia alla cittadinanza nazionale e che, ci pensavo mentre parlava Stefano, passare dalla cittadinanza come appartenenza alla cittadinanza come partecipazione. Guardate che se le parole hanno un significato, è passare dall'essere oggetto, io appartengo, all'essere soggetto, io partecipo. E questo non si può più farlo soltanto a livello nazionale, bisogna farlo a livello locale, bisogna farlo a livello nazionale, e l'unica speranza che abbiamo di sopravvivere in un mondo globale è quella di farlo a livello europeo anche. Però passo il discorso qui. Prego, la parola. Sì, no, anch'io. Solo qualche osservazione, poi l'ora è tarda, tanto dico a Flick che naturalmente ho insistito molto sul rapporto tra la dimensione europea e quella nazionale, perché io penso che questa situazione, così come si è configurata, non sia sostenibile a lungo. Cioè, se vogliamo essere onesti, o si va avanti o si torna indietro, perché sarà una spinta inevitabile. Non perché io la voglia, perché come ho già detto io sono perché si vada in avanti, non ha senso tornare indietro, ma la cosa che avverto è che non si può restare così, non si può più restare così. E quindi da questo punto di vista coloro che pensano che bisogna andare in avanti bisogna però che facciano di più, perché il risultato finale è un nenè. Non siamo più i vecchi paesi, i vecchi stati-nazione, non siamo quella Unione Europea, federazione di stati, fondata su regole chiare, su partecipazione democratica, della quale c'è bisogno. E mentre noi dicevamo le cose sui limiti dello Stato-nazione, dovremmo aggiungere che però questo vale soprattutto per noi, qui in Europa. Non c'è lo stesso punto di vista se ci mettiamo nell'ottica di un cittadino brasiliano, di un cittadino cinese, di un cittadino indiano, di un cittadino indonesiano. Cioè è un'ottica che vale in modo particolare per noi. E siccome noi siamo ancora come sistema europeo la prima economia al mondo, e anche se non contiamo assolutamente come tale appunto per questi problemi, è evidente che o andiamo in avanti oppure la storia di questo nostro continente in qualche misura è segnata. E al declino europeo poi noi naturalmente per le nostre vicende di cui avete parlato noi diciamo siamo le mosche cocchiere, cioè noi decliniamo prima e dopo degli altri. In ragione di questo ho sostenuto anche stamattina, ma lo voglio ripetere qua, perché l'accordo Fiat e il referendum in realtà non è una prova di modernità, ma è una prova di paese provinciale. Immaginate un altro paese in cui su 5.000 poveri lavoratori si concentra la responsabilità di scegliere di un investimento industriale di quelle proporzioni. Si è mai vista? Poteva accadere in qualsiasi altro paese al mondo, democratico o meno? Immaginate in Francia una cosa del genere, in Germania una cosa del genere, in Inghilterra una cosa del genere, in America, in Brasile, in Cina. No, lì decidono altri. Decide il governo, decide l'impresa, sente le parti sociali, si fanno le mediazioni e si decide. O no? Puoi caricare su un referendum un investimento che riguarda tra diretti e indiretti 50.000, 100.000 persone? Ed è giusto? È giusto così? In Italia si è prodotto questo. Fuga dalle responsabilità pubbliche. Fuga forte dalle responsabilità pubbliche. Però questo è avvenuto. E voglio anche smontare la presunta modernità e anche rispondere alle cose dette sull'editoriale del Corriere della Sera. Ora, se noi guardiamo al contenuto dell'accordo in materia di organizzazione del lavoro, turnazioni, eccetera, io trovo questo accordo simile a tanti altri accordi che fanno altri settori. Un po' sconclusionate le 10 ore di lavoro alla catena, perché puoi lavorare 10 ore al giorno, ma lavorare 10 ore al giorno a una catena penso che sia un limite difficilmente raggiungibile in qualsiasi condizione. Ma abbiamo tanti altri accordi dove si sono affrontate condizioni di organizzazione del lavoro, turnazione, senza conflitto. È moderno perché non ci sono più regole, si fuoriesce dal contratto di lavoro? Ma è moderno l'idea che le regole valgano solo per una parte e l'altra parte possa fare come vuole? Cioè è moderno il fatto che al lavoratore tu lo costringi sostanzialmente a ricorrere molto poco allo sciopero su quelle materie e quindi gli dai un sovrappiù di responsabilità e di doveri, e il datore di lavoro fuoriesce tranquillamente dall'accordo interconfederale del 93, dalla regola sulla contrattazione, dal contratto nazionale? Cioè è moderno questo? O è un atto di furbizia? È un atto teso a rappresentare l'interesse di una parte rispetto all'altra? Ma soprattutto, dove non posso accettare il concetto di modernità, è su quello che l'accordo dice in materia di rappresentanza. E vorrei insistere su questo punto, perché sui turni, l'organizzazione del lavoro potremmo discutere tra ragioni e torto, e lì, e su questo è giusto che i lavoratori si esprimano. Perché i primi a subire un'organizzazione del lavoro, a poterla condividere o a poterla giudicare sopportabile sono i lavoratori. Ma dal punto di vista della rappresentanza, perché Marchionne ha voluto quel testo? Per un motivo semplice: non vuole la FIOM in fabbrica. E per non volere la FIOM in fabbrica deve per forza togliere il diritto ai lavoratori di votare le proprie rappresentanze, perché se riconoscesse come giusto quel diritto, ogni lavoratore decide di farsi rappresentare da chi vuole. Per questo supera l'accordo del 93 e per questo la lesione delle nomine dell'RSA soltanto da parte dei firmatari dell'accordo. Con questo però avvengono due cose: che il diritto alla rappresentanza lo toglie ai lavoratori e lo mette in capo ai sindacati firmatari. Non è più un diritto soggettivo del lavoratore di poter eleggere la propria rappresentanza, ma diventa un diritto, tra virgolette, dei sindacati firmatari dell'accordo. La seconda conseguenza è che, siccome quasi metà dei lavoratori ha detto no a quell'accordo, non sto parlando di iscritte alle organizzazioni sindacali, ma di persone, di lavoratori, la metà di quella fabbrica non avrà diritto ad alcuna rappresentanza. Come funziona in Cina la rappresentanza dei lavoratori? Funziona così: che il sindacato ufficiale presenta le liste, che sono definite col Partito Comunista Locale, e i lavoratori votano quelle liste. Non c'è libertà sindacale e non c'è democrazia sindacale. E quando subentra un conflitto generalizzato, il ruolo del sindacato in Cina è quello di convincere i lavoratori che hanno ragione le imprese. Bene, in Cina non c'è democrazia. In Cina non c'è democrazia e libertà sindacale. Lì tutto si tiene. Che succede? A proposito del fondo del Corriere della Sera, e non sto parlando, sto andando oltre il tema del rapporto tra diritti sociali e diritti generali. Che succede sul terreno democratico di questo accordo? Qual è la lesione di questo accordo? Ma se tu superi questa soglia, finisci che non c'è differenza tra come vige la democrazia in Cina nella fabbrica e come vige nella Fiat. E questo vuol dire, per essere chiari, che se superi questo la fabbrica diventa un corpo estraneo ai contenuti e ai valori di ogni rappresentanza democratica. Ritorniamo a quando la democrazia si fermava fuori dai cancelli della fabbrica. Questo è il cuore del problema. Puoi dire quello che vuoi sull'organizzazione del lavoro, puoi dire quello che vuoi sui turni, ma su questo punto o lo affronti oppure devi sapere che allora apri la strada, ma non alla modernità, perché si ritorna esattamente indietro quando non potevi a un'assemblea dei lavoratori far partecipare nessuno esterno a quel luogo di lavoro. Io abbiamo visto ultimamente un film in bianco e nero della prima assemblea aperta alla FATME di Roma, era il 69, e vedevi la gioia dei lavoratori metalmeccanici della FATME di Roma quando andarono ad accogliere, allora era Bruno Trentin il segretario, accogliere Bruno Trentin che per la prima volta poté parlare da esterno, tra virgolette, a un'assemblea, alla più grande azienda metalmeccanica romana. Era il 69. Se modernità vuol dire tornare a prima di quello, io onestamente sarei un po' preoccupato, non per i diritti dei lavoratori, vorrei essere onesto, più in generale per la natura, lo Stato e le sorti della nostra democrazia. Grazie mille a Guglielmo Epifani per questa toccante conclusione di questo intenso pomeriggio. Grazie a tutti e buonasera. Grazie. Costituzionale, centralità della persona umana e via di questo passo. Ecco, io credo che le 2 anni di lezioni hanno dato un bel contributo a questo tipo di discorso e per questo vi ringrazio. Grazie. Grazie vivissime al professor Flick per questa sua bellissima lezione sui principi e sui valori. Non è possibile evidentemente commentarla. Mi permetto soltanto di condividere quel disagio iniziale di ascoltare certi intellettuali che con molta disinvoltura e qualche ignoranza danno anche per scontato la fine dei diritti universali, dei diritti sociali, cioè di quel modello sociale europeo che distingue davvero le nostre democrazie, cioè costituisce la vera identità europea a proposito di appartenenze e di identità di cui tanto si discute. Davvero buttare a mare questo che è il vero patrimonio comune è desolante. Chiederò poi a Epifani se vuole aggiungere dell'altro, ma ascoltiamo gli autori. Allora la parola a Giacomo Marrabao, prego. Ma sono stati 3 interventi ricchissimi sul volume e uno degli autori non può ripetere evidentemente né le cose che ha scritto né commentare altri contributi presenti in questo libro. E seguirò l'indicazione degli amici che sono prima intervenuti proiettando il discorso sul presente. Incomincio un attimo dalla metafora della bussola che Rosy Bindi aveva adottato. Io sono convinto, e penso anche larga parte delle autrici e degli autori di questo libro, che noi abbiamo la bussola. Abbiamo forse smesso di usarla, di adoperarla da qualche tempo, ma, e qui diciamo il punto è delicato, ma le carte di navigazione di cui noi disponiamo non sono più valide, non sono più servibili, cioè non servono più, sono diventate inservibili. E il libro è un tentativo di ricostruire la mappatura, con tutti i limiti che c'è in una mappatura in qualche modo di analisi teorica, concettuale e via dicendo. E le nuove mappe sono le mappe, e qui naturalmente Epifani aveva detto, della nuova condizione globale o come viene chiamata post-nazionale successiva alla dimensione dello Stato, ma la difficoltà di reperire delle mappe valide sta nel fatto che i poteri sono dislocati altrove rispetto a dove noi li immaginavamo, no? E sono dovuti al fatto che, badate, lo Stato, la famosa crisi dello Stato, long seller, se uno va a compulsare la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, il XX secolo si apre con una marea di titoli intitolati alla crisi dello Stato in tutte le lingue del mondo, e si conclude il XX secolo con una marea di titoli sempre intitolati alla crisi dello Stato. È un long seller, cioè lo Stato è troppo grande rispetto alle, lo diceva prima Gianmaria Flick, rispetto alla, alle situazioni locali, è troppo grande per cogliere ciò che è accaduto nelle forme di vita, nella, negli aggregati di interessi, valori e bisogni, no, che emergono nel locale, ed è troppo piccolo rispetto alle, alle grandi sfide globali. Cioè la sovranità statale non è più efficace, anche se le funzioni dello Stato quantitativamente possono aumentare. Cioè si potrebbe usare la formula di un sindacalista, Bruno Manghi, è un declinare crescendo, cioè non dobbiamo aspettarci che lo Stato declini dimagrendo, ma declina crescendo, un po' come, come tutte quante le vecchie forme istituzionali, nel declinare crescono dal punto di vista quantitativo, no? E naturalmente il problema allora della globalizzazione, o come della glocalizzazione, globale locale, come è stato detto, il problema della globalizzazione è un problema che ci dà nuovi scenari, inquietanti anche per certi versi, dove le potenze del globale sembrano essere quelle del capitalismo americano, quelle del capitalismo molto sui generis e tutto quanto da indagare asiatico, ma anche di altre forme di capitalismo che stanno sorgendo nel Mercosur. Il Brasile è uno di questi casi. E naturalmente per giocare un ruolo, e lì ha perfettamente ragione Elena, soltanto l'Europa è in grado di appunto giocare un ruolo all'interno di questo contesto. Qual è la bussola? La bussola ce l'hanno indicata senza retorica gli operai di Fiat Mirafiori, con il loro coraggio, ma anche con la loro lucidità, con la enorme percentuale dei no che hanno saputo esprimere. Io penso che sia un'indicazione abbastanza incredibile, e ci hanno indicato anche una strada, a mio parere, che è la strada che se la globalizzazione come viene recepita, applicata nella logica della politica industriale di alcune grandi imprese, e naturalmente il caso Marchionne è il caso più eclatante, non rappresenta soltanto una violazione dei diritti, e naturalmente qui io dico in maniera molto netta, sarebbe ora in una dichiarazione dei diritti universali di dire, l'ho detto anche in altre occasioni, che il lavoro è divenuto nell'era della globalizzazione non un diritto dei cittadini, ma un diritto umano fondamentale. Cioè una condizione fondamentale per poter avere la dignità di cui Gianmaria Flick parlava prima, ma anche per poter essere veramente libero, cioè non soggiacere più ai ricatti del potere. L'elemento ricattatorio che era presente nella scelta tra sì e no a Fiat Mirafiori era di patente evidenza. Cioè nel senso che non dimentichiamo poi che c'è un altro aspetto che andrebbe analizzato, la crisi del concetto stesso di economia all'interno. Noi si parla molto della dimensione economica globale, ma la dimensione economica globale si accompagna anche a un venir meno della autonomia del concetto di economia, e se l'economia fosse oggi un terreno all'interno del quale il potere, ben lungi da ragioni oggettivamente materiali, gestisce una logica di divisione, di separazione degli individui in funzione del mantenimento di forme di dominio e di assoggettamento che non hanno nulla a che fare con l'economia, ma sono in realtà forme di assoggettamento. Questo problema molto serio che sta affiorando nel dibattito internazionale e che secondo me va posto, ma sicuramente per giocare un ruolo in questo quadro soltanto come Europa noi ci possiamo intendere e non naturalmente come Stato italiano, anche come sola Germania e via dicendo. L'elemento ricattatorio, vedevo l'altro giorno in televisione un interessantissimo servizio sulla situazione delle fabbriche automobilistiche in America, dove negli Stati Uniti dei lavoratori, badate bene, dei lavoratori che percepivano tra i 30 e i 35 dollari all'ora venivano sostituiti da operai non stranieri, badate bene, ma da altri operai americani che erano disposti a percepire 14 dollari all'ora. 14 dollari all'ora. E naturalmente questo significa che all'interno del mercato del lavoro globale si sta determinando, dentro le metropoli del capitalismo, tra virgolette, si sta appunto verificando una contraddizione di questo genere. Assolutamente d'accordo con la diagnosi che Epifani prima ha fatto, nel globale abbiamo un potere enorme del cittadino consumatore per il dispiegarsi del ventaglio delle merci, e qui viene un po' in mente la famoso incipit del Capitale di Marx, la ricchezza delle società in cui domina il modo di produzione capitalistico, si presenta come una immane raccolta di merci. Ora questa scelta, questo ventaglio delle merci è enormemente aumentato, così come anche le possibilità di informazione date dalla rete, da internet, dall'uso del digitale, quindi accesso alle merci e alle informazioni come mai prima, ma però assoggettamento politico, cioè soggetto che è attivo da una parte, potenzialmente attivo da un lato e passivo dall'altra parte, che sicuramente, ecco, questo in questo vuoto, sono d'accordo, si situa una tendenza che in Italia si manifesta, ahimè, in forme sempre più caricaturali, ahimè, in forme sempre più intollerabili e caricaturali. Se non la facciamo finita subito diventeremo oggetto di ridicolo, siamo già oggetto di ridicolo in tutto il mondo. Però è una tendenza questo del neopopulismo mediatico presente in tutte le democrazie, le democrazie occidentali. E secondo me è un effetto determinato da due fenomeni. Li indico in maniera molto, molto schematica. La forbice tra politica, e già Maria Flick ha detto bene, ma anche Rossi Bindi in parte, mi pare che lo intendesse implicitamente, tra politica dei partiti in senso tradizionale e quelle che Habermas chiama forme di vita. Io uso un altro termine, i contesti di esperienza. Guardate bene, linguaggi. Uno dei fattori di crisi della politica è dovuto al fatto che i linguaggi dell'esperienza, giovanili ma non soltanto giovanili, i linguaggi dell'esperienza sono ormai dei linguaggi di una ricchezza straordinaria e non si sentono assolutamente rappresentati dalla ritualità del linguaggio politico, dalla noia ritualità del linguaggio politico. Allora questa, diciamo, dimensione creativa dei linguaggi che si danno nei contesti di esperienza andrebbe, a mio parere, oggetto di analisi. E naturalmente qui abbiamo, anche in questa rete di esperienze, abbiamo la tematica della rete delle municipalità. Un federalismo delle municipalità mi sembra una cosa molto importante. Secondo fenomeno, quello che io chiamo la caduta del ciclo del disincanto, cioè è la parabola del disincanto politica iniziata nel famoso tornante che anche per gli storici dell'economia è il tornante chiave, fine degli anni 70 e inizio degli anni 80, e Dio sa quanto ha pesato quel tornante sulla politica italiana, quel tornante lì è stato l'inizio del disincanto, anche nobile, disincanto weberiano con Stefano, con Massimo Cacciari, abbiamo fatto tante lotte per una deideologizzazione della politica. Ma oggi, ragazzi miei, battere sul tasto del disincanto significa portare acqua al mulino del cinismo politico imperante. E allora, a mio parere, noi stiamo assistendo oggi alla fine del ciclo del disincanto. E siamo in un'epoca, se volete, che è al di là dell'epoca post-ideologica, se volete anche al di là dell'epoca postmoderna, al di là della post-ideologia, al di là del postmoderno, e lo vediamo anche dalle scollature che si danno dal punto di vista antropologico, la famosa analisi di Pasolini, sono scollature nell'antropologia sociale. Per un verso abbiamo, lo vediamo nel caso italiano, dei ceti egoisti, acquisitivi, aggressivi, che hanno determinato in quest'Italia berlusconiana un inaudito degrado dei comportamenti civili e di degrado anche della qualità delle relazioni. Non c'è, dico, neanche più il minimo, diciamo, coefficiente di educazione. Ma dall'altra parte, però, il crescere di comportamenti solidali, di nuove forme di comportamento, cioè bisogno che si esprime non soltanto nei giovani, ma soprattutto in loro, l'abbiamo visto recentemente con i movimenti all'università, un bisogno di un orizzonte di senso, di stabilire un nesso tra le generazioni, se volete di un bisogno anche di comunità, cioè diciamo farla finita con il senso di isolamento, di solitudine o di ghetto che si ha. E questo chiama in causa un rapporto tra politica e passioni, cioè una sinistra dovrebbe essere in grado non soltanto di progettare, di fare dei buoni programmi e buoni progetti, cosa che da tempo ha smesso di fare, peraltro, ma di tessere delle trame, come dire, di discorso, che siano cariche di passione. C'è una politica che non riesca ad appassionare, che non sia reincantata in qualche modo, che non muova le passioni, inevitabilmente lascia un terreno aperto alle scorribande populiste. Naturalmente questo significa anche che il discorso sui nuovi diritti va agganciato al discorso sui nuovi doveri, cioè nel senso che se volete, quella che Flick chiamava prima la responsabilità sulla scorta di Zagrebelsky. Libertà, responsabilità comporta un equilibrio tra diritti e doveri funzionale a una ricostruzione, e lo dico io che vengo dalla generazione che si è formata nella seconda metà degli anni 60, una ricostituzione dell'autorità pubblica. Oggi abbiamo un potere orrendo, senza autorità, senza alcuna autorità, privo di qualunque legittimità, e naturalmente questo significa, a mio parere, appunto ripensare la sfera pubblica democratica come una sfera pubblica che può vivere unicamente, come ogni democrazia, in un mondo complesso, globale, può vivere unicamente con un coefficiente molto alto di cultura, di preparazione, di informazione dei cittadini. E quindi rivendico anche, come anche Stefano, per altro verso, il tema della formazione permanente, e ritengo, correggendo il caro collega amico Habermas, che forse la democrazia non ha come sua cifra di verità, usiamo questo termine tra virgolette, il consenso, ma il dissenso. Cioè la democrazia è, a mio parere, tale se riesce ad alimentarsi dell'energia che proviene dal dissenso creativo. troppi regimi autoritari, qui torno a usare l'autoritario in senso negativo, si sono fondati sulla logica del consenso, e anche il neopopulismo lo fa. La democrazia in qualche modo si alimenta invece del dissenso, ciò in cui, come è stato detto da Gian Maria Flick, risiede la chiave, la cifra di quel metodo che si chiama il metodo della laicità. Tutto qui. Grazie a Giacomo e alla sua complessa analisi che ha toccato moltissimi temi. Posso solo dire che mi auguro davvero che sia la fine del disincanto e che ritornino passioni politiche nel nostro domani. La parola a Stefano Rodotà. Io penso una cosa molto banale, cioè che questo libro, non è mai elegante parlare in modo elogiativo delle cose a cui si è partecipati, ma insomma, che questo libro abbia in questo momento due funzioni. La prima è quella contribuire alla definizione dell'agenda politica. L'agenda politica è povera, l'agenda politica è lontana da molte questioni, l'agenda politica è misurata neppure sul breve periodo, ma è misurata neppure sul sondaggio ormai, è misurata sulla reattività quotidiana che non solo percorre la maggioranza, il suo leader, ma ha infettato, per così dire, l'intera politica italiana, nella quale l'idea di responsabilità è scomparsa completamente. E il fatto che il ragionare, dichiarare sia qualcosa sganciato da quella che può essere la voglia polemica di una giornata, mi pare che sia sempre più difficile da prendere in considerazione. Quindi la possibilità di ricostruire una vera agenda politica. E in secondo luogo, vista la complessità e anche la diversità dei contenuti, recuperare la dimensione argomentativa, perché è quello di cui noi in questo momento soffriamo, è la mancanza di argomentazione. L'argomentazione è molte cose, a cominciare dal rispetto dell'altro, ed è faticosa. In questo senso anche la fatica di leggere un libro è un esercizio che dovrebbe essere in qualche modo rimesso in onore, per una ragione molto banale, perché la cattiva politica è sempre nutrita da cattiva cultura. Questo, quando noi facciamo l'apologia o ricordiamo tratti importanti della nostra storia repubblicana, momenti particolarmente intensi della legislazione, noi ci troviamo sempre di fronte a una buona politica, a una buona cultura e all'esistenza di canali di comunicazione tra cultura e politica per cui nell'una e nell'altra erano subalterne rispetto all'altro interlocutore. Inutile che io ricordi la Costituzione, la Temperie. Io oggi ho quasi una resistenza a far leggere a persone giovani che lavorano con me gli atti della Costituente, perché quando questi li hanno letti tornano da me con un'aria assolutamente sbalordita, perché loro fanno istintivamente il confronto con la qualità della discussione che abbiamo di fronte. Ma non solo la Costituzione, io voglio ricordarla, adesso non la faccio lunga, sarà velocissimo. Se noi due passaggi tra i tanti, lo Statuto dei lavoratori aveva certamente dietro le spalle l'autunno caldo o altri momenti, la scoperta delle schedature Fiat, senza la quale non si comprenderebbero alcune norme chiave anticipatrici, però aveva la grande cultura del diritto sindacale, con la quale il sindacato aveva una familiarità Così come da parte di, dico, non è un caso che lo statuto dei lavoratori si vede imputato un padre che è uno studioso tra i maggiori, che era stato Gino Giugni. Non è un miracolo lo statuto dei lavoratori. La riforma del diritto di famiglia ha avuto certamente un forte incentivo per sbloccare molte resistenze nel risultato del referendum sul divorzio, ma nasce da un rinnovamento profondo della cultura giuridica italiana in queste materie. Oggi questi canali di comunicazione sono interrotti e ci sono anche grandi responsabilità della cultura di questo Paese. Io sono con Gianmaria Flick, abbiamo sempre molti momenti di consonanza, ma la reazione a quell'editoriale di oggi del Corriere della Sera, di cui non voglio neanche nominare l'autore, che però mi colpisce perché viene pubblicato su quello che viene considerato storicamente il maggior quotidiano italiano all'indomani del risultato del referendum. Allora, qui siamo in un punto in cui di nuovo il circuito tra politica e cultura si interrompe, o meglio, c'è un tipo di cultura tra molte virgolette che rischia di produrre di nuovo la cattiva politica. Io richiamo tra i tanti saggi che ci sono eccellenti in questo volume alcune parole del saggio di Maria Vittoria Ballestrero, quando lei si pone il problema se nel mercato globale la conciliazione tra mercato e diritti dei lavoratori debba avvenire ricollocando il diritto del lavoro all'interno del commercio internazionale, o se invece debba essere riaffermata l'autonomia della dura lex che impone regole alle quali deve adattarsi il commercio internazionale. Questo oggi è il tema all'indomani del referendum di Mirafiori, rispetto al quale, in modo più scoperto in questo sgangherato editoriale, in modo più coperto ma altrettanto insidioso in altre dichiarazioni e contributi di questi giorni, si cerca di fare quale operazione? In quell'editoriale è detto molto chiaramente, non c'è soltanto, io sono d'accordo, non torno su questo punto, il ritorno di un vecchio discorso, veramente culturalmente vecchissimo, per cui i diritti sociali non sarebbero diritti, ma questo è un discorso di una vecchiaia culturale indicibile. Dovrebbe vergognare di usare queste argomentazioni anche nella dimensione europea, perché il risultato, uno dei risultati più importanti, quello sottolineato in tutto il mondo di questa Carta dei diritti fondamentali, è avere ribadito in modo definitivo l'indivisibilità dei diritti. Questo, possibile che noi siamo così miopi o così ignoranti da non renderci conto di quelli che sono? Non possiamo nello stesso tempo chiedere salvezza all'Europa e ignorare che cosa è oggi può essere il contributo che viene dall'Europa. Ma lì c'è un altro elemento che riaffiora. In realtà, negando i diritti sociali, e in primo luogo i diritti del lavoro, e i diritti in quelle editoriali sono scritti tra virgolette, si parla di diritti tra virgolette, no, non sono veri diritti. In realtà dietro questa operazione, liberandosi dei lavoratori e dei loro diritti, ci si vuole liberare della Costituzione. È detto esplicitamente, la Costituzione è ormai una ideologia di cui ci si deve liberare. Questo è un passaggio, ed è un passaggio che io ricordo per una ragione. La ragione nasce dal fatto che mai, come in questo momento, se non riandando a un'altra fase che ricorderò tra un momento, il richiamo, l'attenzione, in qualche misura la passione per la Costituzione è tornata nel dibattito pubblico. È tornata nel dibattito pubblico e abbiamo visto i ragazzi che hanno impugnato, anche fisicamente l'hanno portata in giro, quella Costituzione che non gli viene fatta leggere a scuola. Allora c'è in qualche modo una Costituzione che incontra il suo popolo e questo appare intollerabile. Questo è il punto. Quando si dice ma voi questi diritti possono essere, perché non sono